Componimento 76esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Amor con sue promesse lusingando mi ricondusse alla prigione antica e die le chiavi a quella mia nemica ch'ancor me di me stesso tene in bando. Non me n'avidi lasso se non quando fui in lor forza ed or con gran fatica, chi crederà perché giurando il dica, in libertà ritorno sospirando. E come vero pregioniero afflitto de le catene mie gran parte porto, e l cor negli occhi e nella fronte ho scritto. Quando sarai del mio colore accorto, dirai si guardo e giudico ben dritto, questi avea poco andare ad esser morto. Fine del componimento.